Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo del libro Giovani senza futuro con un punto di domanda. Per fortuna direi, perché il futuro dovremo darlo a questi giovani. Proposte per una nuova politica. Un libro curato da Carlo Della Ringa. Buonasera professor Della Ringa. Buonasera a lei e agli ascoltatori. E dal professor Tiziano Treu. Buonasera professor Treu. Buonasera, grazie. Carlo Della Ringa è professore di economia politica presso la Facoltà di Economia e Commercio della Cattolica di Milano. Tiziano Treu è ordinario di diritto del lavoro dell'stessa Università Cattolica. È stato anche ministro nei governi passati. Giovani senza futuro, un libro dedicato alla questione giovanile, una questione giovanile che si sta aggravando, si è aggravata durante la crisi economica, sono stati i principali protagonisti in negativo della perdita di posti di lavoro. Un libro che raccoglie alcune tesi, raccoglie anche molti altri interventi da parte di esperti, da Massimo Livi Bacci a Michele Colasanto, a Marco Melloni, a Edoardo Patriarca, proprio sul tema del lavoro dei giovani, ma non solo del lavoro, anche delle politiche del lavoro, del welfare, delle prospettive dell'istruzione strettamente collegata con il lavoro. Allora, Carlo Della Ringa, qual è il problema maggiore per i giovani in questa fase dell'economia e della politica italiana? Che sono senza lavoro, che l'Italia ha il primato sia del tasso di disoccupazione dei giovani, ma anche di quell'insieme della popolazione giovanile che non ha né un lavoro e non è impegnata negli studi. Noi abbiamo dei record quasi mondiali, forse solo la Spagna ci batte, e questa naturalmente situazione è peggiorata particolarmente negli ultimi 2 o 3 anni. Quindi se veramente si pone il problema di facilitare la transizione dei giovani dalla scuola o dall'università al mondo del lavoro e anche far sì che arrivino a un posto stabile in tempi ragionevoli. Ecco, in questa prospettiva si legge proprio nel libro che appunto gli studenti italiani sono quelli in cui c'è maggiore distacco tra la scuola e il lavoro. Se ne parla tanto, ma alle parole non è mai corrisposta una politica precisa. Professor Treu, è questo il problema principale? Questo è un pezzo del problema, infatti riguarda proprio politiche di istruzione e mescolate meglio con esperienze di lavoro. Questo non è solo una idea che abbiamo, che hanno gli esperti, ma è una pratica in altri paesi. Si dimostra che quei paesi che hanno mescolato meglio il lavoro con l'istruzione, quindi un'istruzione più professionalizzata e un lavoro anche di esperienza tipo stage o apprendistato, meglio ancora, hanno meno difficoltà a far transitare i giovani dalla scuola al lavoro. La Germania è un caso emblematico, quindi questo è una parte importantissima del nostro discorso. L'altra parte è poi dopo appunto la mancanza di lavoro, che quindi ha a che fare col versante impresa, col versante economia. Ecco, infatti nel libro si citano gli esempi dell'apprendistato alla tedesca, in Svizzera, in Germania, in Austria, un terzo dei giovani che studiano fa nello stesso tempo un'esperienza di lavoro, mentre in Italia la divisione è molto più netta. È un problema, professor Treu, più della scuola o più dell'industria? Sempre in questi casi ci sono due fatte della medaglia. Non c'è dubbio che noi non possiamo permetterci di andare nell'età della conoscenza con drop-out ancora sopra la media europea, i giovani che non arrivano alla superiore, e dobbiamo avere più istruzione terziaria ma molto più mirata, quindi questa è sicuramente una cosa che dobbiamo fare. Però è anche vero che noi abbiamo un circolo vizioso. Anche quei laureati che abbiamo, magari bravi, comunque meno degli altri paesi, poi fanno fatica spesso, le piccole imprese chiedono troppo lavoro poco qualificato perché non capiscono l'importanza in prospettiva di avere dei giovani formati, li pagano magari poco, quindi è un circolo vizioso. L'istruzione è poca, vale meno, le imprese non la riconoscono e bisogna rompere questo cerchio, quindi bisogna anche che le imprese siano più sensibili, e del resto qualificarsi su questo piano permette anche di avere una produzione in settori, come si dice, a maggior valore aggiunto, e quindi quello che è il futuro anche per le imprese. Ecco, in questa prospettiva come trasformare un circolo vizioso in un circolo virtuoso, un mettere a frutto appunto le potenzialità dei giovani, giovani che prima della crisi l'occupazione in Italia anche dei giovani era cresciuta molto grazie alle riforme del mercato del lavoro, riforme che però poi con la crisi si sono dimostrate incapaci di sostenere mantenere questa occupazione. Allora, professor Dell'Aringa, lei non ha avuto responsabilità di governo come il professor Treu. Che cosa bisognerebbe fare come riforma del mercato del lavoro? Se ne parla in questi giorni, probabilmente avremo delle proposte concrete nei prossimi giorni. Che cosa spera ci sia in questa proposta del governo e in questo dibattito aperto con i sindacati? Tre aspetti vanno affrontati: quelli delle politiche attive, quelli degli ammortizzatori e quelli delle cosiddette flessibilità. I primi due in particolare, perché accanto a una scuola, un'università che funzionino meglio, un'offerta formativa più ricca, un orientamento migliore, occorrono delle politiche del lavoro, cioè dei servizi del lavoro che siano in grado di accompagnare attraverso qualificazione professionale, attraverso esperienze di vario tipo i giovani al lavoro. La seconda è gli ammortizzatori, perché i giovani, avendo spesso questi contratti temporanei, non hanno i requisiti per accedere agli ammortizzatori, quindi sono doppiamente sacrificati anche dal punto di vista del sostegno del reddito. Per quanto riguarda le flessibilità, che è l'argomento che maggiormente appassiona i media, un po' tutto il mondo politico, ma che noi riteniamo sì importante, ma non quello determinante per i giovani, diciamo un paio di cose. Primo, le flessibilità introdotte dalle riforme del lavoro oggi vengono definite flessibilità buone: il contratto a tempo determinato, l'apprendistato, la somministrazione. Ci sono sviluppate anche delle flessibilità cattive, cioè contratti di lavoro di tipo subordinato, papara subordinato o autonomo, che di fatto nascondono posizioni alle dipendenze. Qui si evade o si elude la legge, quindi va combattuta la cattiva flessibilità. E infine, per quanto riguarda il famoso articolo 18, il diritto alla reintegra, noi diciamo semplicemente che forse bisogna puntare molto sulla velocizzazione e il rafforzamento della giustizia. Al 51% il problema dei costi delle aziende sono processi che non finiscono mai. Secondo luogo, se proprio si vuole intervenire su questo famoso reintegra, l'idea, come in Germania, di affidare anche lì un giudice, ma più professionale, più capace, più impegnato, il compito di decidere se nei casi più gravi reintegrare il lavoratore o meno, ecco, questo potrebbe essere quel compromesso, quella manutenzione forte di cui si parla oggi e che forse potrebbe essere un compromesso ragionevole. Ecco, forse si è parlato un po' troppo in maniera anche ideologica sull'articolo 18, mantenerlo oppure abrogarlo come se fossero due alternative drastiche. Forse bisognava discutere su come superare l'articolo 18 ed avere delle garanzie, in modo che anche sul fronte delle garanzie, queste garanzie non interrompessero appunto delle possibilità di flessibilità. Ecco, professor Treu, si parla molto della precarietà dei giovani, è questo uno dei problemi di fondo? I giovani che si sentono oltre che essere precari? Come diceva il professor Dell'Aringa, c'è un problema di mancanza di lavoro, perché una crescita che si è bloccata purtroppo non produce lavoro. La precarietà è frutto sì magari di qualche regola sbagliata, di abusi, no? Ad esempio noi italiani siamo gli unici che abbiamo queste forme strane, collaboratori che in realtà sono dipendenti, partite IVA finte, e lì quindi la trattativa dovrebbe cercare di pulire, di evitare e superare queste anomalie. Però è anche vero che la precarietà non è solo legata a queste case, è proprio legata al fatto che noi abbiamo anche un'economia e soprattutto le piccole imprese che sono incerte sul loro futuro. Se un artigiano ha ordine a 2 mesi è difficile che assuma un dipendente a tempo indeterminato, quindi torno a quello che si diceva prima, avere giovani che siano molto ben formati, che abbiano esperienze di lavoro per cui si può investire su di loro il più possibile. Però dall'altra parte anche un rafforzamento della struttura che accetta questi giovani delle imprese, soprattutto quelle piccole. Questo si vede che dall'esperienza che noi abbiamo di altri paesi, anche paesi che hanno più flessibilità, che non hanno l'articolo 18, che stanno impegnandosi per i giovani, perché bisogna fare qualcosa di più rispetto alla stessa flessibilità, cioè bisogna appunto investire di più in una formazione all'altezza della futura società e bisogna avere imprese più accoglienti e che guardino più al futuro. Quindi il fatto che gli altri paesi si impegnino in questo dimostra che il problema non è solo la flessibilità. In fondo questa trattativa in corso in questi giorni recupera solo delle cose che altri paesi hanno già sistemato, gli ammortizzatori e anche queste regole più controllate, però bisognerebbe fare qualcosa di più. Ecco, fare qualcosa di più. Per concludere, professor Dell'Aringa, è possibile sperare che questa politica possa riuscire a modificare proprio un andamento in cui c'è molta conservazione dell'esistente, ma è difficile fare dei passi avanti in temi sensibili come questo del lavoro, professor Dell'Aringa? Sì, certamente vince delle resistenze, perché non c'è dubbio che le sfide della globalizzazione, le sfide del progresso tecnico, la crisi finanziaria in cui siamo ci costringono ad essere più competitivi. Quindi dobbiamo rimuovere quelle barriere che impediscono al nostro sistema produttivo di proporsi nei mercati mondiali in modo competitivo. Il lavoro è uno di questi, ma non c'è solo il lavoro. Come sappiamo c'è le liberalizzazioni, le semplificazioni, la politica industriale, le infrastrutture. Ecco, c'è una serie di misure da prendere. Primo, secondo, tutto questo deve avvenire però in condizioni macroeconomiche accettabili, perché non c'è dubbio che se i paesi si avvitano in un percorso di controllo del debito pubblico, di manovre recessive, per quanto l'offerta di lavoro, l'offerta dei fattori produttivi sia efficiente, se non c'è domanda non c'è posto di lavoro per nessuno. Quindi la grande sfida non è solo quella di preparare il nostro apparato produttivo e il mercato del lavoro ad essere più efficiente, ma anche a garantire una ripresa del paese all'interno dell'area monetaria. Ringrazio Carlo Della Ringa e Tiziano Treu, i curatori del libro Giovani senza futuro, proposte per una nuova politica, edito dal Mulino nella collana dell'Arel. Sono 410 pagine, 28 euro, molti altri interventi raccolti in questo volume. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Luca Cremonese e Stefania Terraferri in redazione, Filippo Reggi in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.